Zichipachi era nata fra gli indù, era figlia d'un gran capo di laggiù. Bella baianera, piccola e leggera, somigliava al padre Zichipù. Ma un bel giorno, non so proprio come fu, Zichipachi si è trovata tu per tu con un tipo strano. Era un italiano. Zichipachi non ci vide più. Dissi tu, proprio tu, o mi baci oppur lo dico a Zichipù. Ai Zichipachi, Zichipù, l'italiano non ci stette a pensar su. Se la prese per la mano, la condusse più lontano, sotto un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, bella indù. Zichipachi sono, non scordarlo più. E per meglio ricordar, tosto lui si mise a far Zichipachi, Zichipachi, Zichipù. Bisogna ripopolare l'India. Meglio un bimbo mezzo indiano che passar la vita in vano senza eredi su per giù. E se la moda di laggiù la nazione a popolar non pensa più, si può sempre ricordar la canzone che suole fare Zichipachi, Zichipachi, Zichipù.